Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buon inizio settimana a tutti. È certamente uno degli investimenti più importanti della vita di ogni giovane e della sua famiglia. Parliamo della scelta della facoltà universitaria, una scelta che in genere tende a rispettare la vocazione di chi deve farla, le opportunità professionali che possono aprirsi in seguito al percorso di studio prescelto, ma a volte può essere una scelta anche condizionata dagli aspetti economici, le rette universitarie, i costi del vivere lontani spesso dalla città d'origine, le borse di studio e tanti altri aspetti da considerare. Insomma, è un impegno anche finanziariamente parlando molto importante per giovani e famiglie. Oggi questo è uno dei tanti aspetti che vengono presi in considerazione nel dossier università. Abbiamo sentito qualche minuto fa anche il passaggio dello spot pubblicitario pubblicato gratuitamente con il Sole 24 Ore, con tutti i consigli pratici su lavoro, borse di studio, alloggi e doppi titoli. E allora il dossier è stato curato e coordinato dalla collega Franca De Ponti, questa mattina con noi a Salva Danaio. Franca, bentornata. Buongiorno a tutti. Con la collaborazione di Cristiano Dell'Host. Cristiano, bentornato anche a te. Buongiorno a tutti. E quindi avrete capito che oggi naturalmente mettiamo a vostra disposizione gli autori del dossier università per così aiutare anche le famiglie nell'orientamento in questo mondo, perché ovviamente i giovani ne sanno molto, ma molto spesso magari non hanno tutte quelle informazioni corrette anche per fare una scelta adeguata. Insieme a noi anche Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea. Dottor Cammelli, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie di essere ritornato a Salva Danaio. Dunque, numero verde per i vostri interventi 800 24 00 24, numero per i vostri messaggi 349 238 6666. Prima di entrare nel vivo della trasmissione, come sempre un'occhiata alla borsa. La settimana parte molto male per l'Europa, abbiamo dei cali che sono in media di 2 punti percentuali, anzi in realtà fino a poco fa perdevano anche di più, perché Francoforte ha sfiorato, anzi superato una perdita di 2,5 punti. Adesso il listino tedesco perde il 2,20, Parigi meno 1,74, Londra meno 1,70, Milano sul FTSE MIB meno 1,83%. Dicevamo, preoccupazioni ancora sulle condizioni economiche generali, che non sono state fugate da quello che si è potuto capire dalle dichiarazioni del fine settimana dei leader che hanno partecipato al G8 finanziario di Lecce. Ci sono poi timori per la crisi del credito in Germania, timori che sono stati espressi dal ministro dell'industria tedesco. C'è il petrolio che è sceso sotto i $72 al barile, ma non è una grande consolazione perché comunque gravita a 71 in un mercato, quello del greggio, che rivolge la sua attenzione anche all'Iran e alle proteste del dopo elezioni. Piazza Affari, un'occhiata ai migliori titoli di questa mattina. CIR più 2,43, Terna più 1,13, Lottomatica più 0,5. Fino a poco fa c'erano solamente CIR e Terna come titoli positivi, adesso si è aggiunta anche Lottomatica, ma insomma non c'è stato un grande sforzo di migliorare la giornata. In calo invece STM meno 4,53%, dopo che il numero uno di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini ha preannunciato l'intenzione del gruppo di vendere la quota del 3,2% detenuta nel produttore italo-francese dei chip. Luxottica meno 3,51, Fondiaria meno 3,39, Generali meno 2,83, meno 2,8% anche per Pirelli, Alleanza meno 2,78, Buzzi meno 2,59, ribasso di 2,5 punti anche per Fiat, e abbiamo una lunga lista di titoli che perdono circa 2 punti percentuali. In tutto questo il dollaro rimonta sull'euro a 1,38,81, e questi sono i principali temi della seduta di borsa. Noi però la borsa la lasciamo e oggi si parla, Salva Danaio, invece di università. Mantenere uno o più figli all'università è una delle sfide principali delle famiglie italiane. Ogni anno la quota degli iscritti va aumentando di pari passo con la speranza che un buon titolo di studio possa perlomeno aiutare ad ottenere un buon posto di lavoro, cosa quanto mai desiderabile in un periodo di crisi come questo. Ma quali sono le principali spese da sostenere? Un figlio iscritto all'università può costare circa 3.700 euro all'anno se vive in famiglia e addirittura oltre i 10.000 euro se si tratta di uno studente fuori sede. Mantenere il figlio studente fuori casa diventa così un lusso che solo poche famiglie si possono permettere. Il problema più evidente è senza dubbio rappresentato dall'affitto, le cui cifre astronomiche, soprattutto nelle grandi città, spingono ad optare per gli alloggi universitari, purtroppo non molti, o per una stanza singola, che a Milano, in zona Navigli, costa circa 500 euro. Oltre all'alloggio, si devono poi aggiungere le spese per le tasse universitarie, calcolate su parametri differenti in base alle diverse città, quelle per i libri, per i pasti e per i trasporti pubblici. Una boccata di ossigeno arriva dalla possibilità di detrarre alcune di queste voci dall'IRPEF, come la spesa per l'iscrizione all'Ateneo, e soltanto per gli universitari fuori sede, quella per l'affitto. Ecco spiegato dunque l'assalto alle borse di studio erogate dallo Stato e ad altre forme di prestiti creati appositamente per gli studenti. Dal progetto targato ABI, diamogli credito, che consiste in prestiti personali dai 1.000 ai 6.000 euro e che richiede una sorta di soglia di merito, ai cosiddetti prestiti d'onore offerti dalle principali banche italiane. A questi strumenti si è aggiunta di recente anche la polizza 110 Elode, che prevede il pagamento delle tasse universitarie in qualsiasi ateneo fino a 120.000 euro per i ragazzi usciti con il massimo dei voti dalla maturità. Il tutto in cambio di un premio di 550 euro. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Siete in procinto di fare questa scelta per i vostri figli? Insomma, come vi state orientando? Qual è anche la variabile che vi interessa considerare di più? Se è quella economica o se è comunque la prospettiva anche di inserimento nel mondo del lavoro, credo che entrambe viaggino di pari passo, ma in ogni caso Franca De Ponti ha coordinato il dossier Università in uscita oggi con il Sole 24 Ore. Noi abbiamo focalizzato la nostra scheda sugli aspetti economici, ma il dossier è molto, molto più articolato. Ci fai un biglietto da visita di questa pubblicazione in uscita oggi con il Quotidiano? Il biglietto da visita cerco di farlo sintetico. Diciamo che il dossier è articolato in tre parti, più una solo online. La parte cartacea, che è insomma abbastanza corposa, comunque non bisogna spaventarsi perché è divisa abbastanza bene. C'è una prima parte, a parte la prima pagina che è generale, c'è una prima parte che indirizza la scelta, in cui si parla dei test d'ingresso, degli open day che fanno le università per cercare di far conoscere agli studenti in anticipo l'offerta formativa, si parla dell'Erasmus, cioè della possibilità di andare all'estero durante il percorso di studio, si parla dei servizi web sempre più presenti nelle università, che consentono non solo l'iscrizione ma anche l'iscrizione agli esami e in certi casi anche la comunicazione con gli insegnanti. Poi c'è una parte che è quella di cui parlavi tu, Deborah, che è, l'abbiamo intitolata Sportello Matricole, che parla proprio dei costi. I costi e la possibilità, insomma, di scontarseli un po' questi costi. Quindi da un lato le tasse universitarie, gli alloggi, quanto costano, come si fa per trovare le offerte e magari le offerte migliori. I collegi universitari, comprese anche le scuole di eccellenza, che peraltro non sono ovviamente un modo per trovare l'alloggio migliore, ma hanno un'altra finalità, che è quella di accogliere gli studenti che hanno più chance, diciamo sono le scuole un po' per le elite intellettuali. E poi c'è la parte, insomma, invece finanziamenti, diciamo, in cui, come tu ricordavi, cerchiamo di fare un panorama sulle possibilità, insomma, di avere dei soldi o dalle banche o dallo Stato tramite le borse di studio dalle regioni. E poi c'è la terza parte cartacea, che invece fa un po' un panorama sulle diverse offerte formative delle facoltà, soprattutto mirandole al lavoro. L'ultima parte è solo online ed è la mappa di tutti i 4.800 corsi di studio offerti dagli Atenei italiani. In riduzione, tra l'altro, rispetto agli ultimi anni per effetto della riforma universitaria. Sì, sono stati, insomma, il Ministero sta cercando di stringere i cordoni già da 2 anni, c'è un certo disboscamento per evitare titoli inutili e francamente anche poco produttivi dal punto di vista del lavoro. Comunque sulla prima pagina del dossier di oggi c'è un codice, mediante questo codice si accede a questa mappa e uno può farsi la sua ricerca per facoltà, per Ateneo o per provincia. Quindi insomma una sorta di open day del Sole 24 Ore. Ma a parte questo, in che periodo le organizzano queste giornate le università? Dipende dall'Ateneo, però insomma cercano di organizzare negli ultimi mesi della scuola superiore, soprattutto per cercare, insomma, di, comunque nell'ultimo anno, insomma, di coinvolgere gli studenti dell'ultimo anno, in modo che questi stanno già a scuola e magari usano una giornata di scuola per andare a vedere l'offerta formativa. Penso per esempio, non so, alla Bocconi piuttosto che altre università di Milano che sono più vicine, ma la cosa si sta diffondendo, insomma, in modo che, siccome indubbiamente uno dei problemi è lo scollamento che c'è fra la scuola superiore e l'università, in modo da come dire, da cercare di colmare un po' il gap. Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea, è stato anche lui, insomma, un aiuto notevole nella stesura di questo dossier Università come ogni anno. Le chiedo intanto, visto che abbiamo parlato di biglietti da visita, di raccontarci un po' che cosa fa Alma Laurea, che tra l'altro è un, come dire, un, una vetrina, mi viene da dire, ma insomma un modo per fare, per permettere un incontro tra le figure che si laureano presso le università italiane e il mondo del lavoro. E poi commenteremo anche quanto lei scrive stamattina proprio nella prima pagina del dossier, come si individua il corso migliore. So che avete messo a punto, che lo fate appunto proprio per vostra missione, un percorso di orientamento, ma mi piacerebbe poi commentare con lei soprattutto il fatto che, come riconosce, a frenare la mobilità territoriale degli studenti ci sono anche i costi spesso insostenibili per le famiglie. Partiamo con ordine. Alma Laurea, di che cosa vi occupate? Noi abbiamo cominciato nel 94 a mettere in online i curricula dei laureati in modo tale che l'incontro domanda offerta non sia soltanto un'invocazione di principi ma un fatto reale, e poi tutta la documentazione raccolta, che è una documentazione molto consistente, molto approfondita, molto tempestiva, mettere a disposizione e delle università e di chi deve scegliere di andare all'università, in modo che possa avere tutto ciò che serve, diciamo, il sistema di istruzioni e di informazione per poter fare una scelta consapevole, cosa che oggi è sempre molto più complicata. Mm-hmm. E Alma Laurea, sotto questo profilo, ha pubblicato recentemente il profilo, cioè l'identikit, cioè le performance di quasi 200.000 laureati delle università italiane che aderiscono ad Alma Laurea, e quindi in qualche modo la pagella, se vuole, dei fratelli maggiori, dei ragazzi che adesso si trovano nella condizione di dover scegliere. Mi pare che rispetto alle indicazioni che lei dava all'inizio, molto importanti, l'aspetto dell'occupazione e della, dico, retribuzione sia molto importante. Sottolineo sempre che essere laureati vuol dire avere chance di più dal punto di vista occupazionale. Mi ha fatto il confronto fra i dati dei laureati e dei diplomati di scuola secondaria, c'è un 10-11% in più di condizione occupazionale, che non toglie che ci siano anche di quei disoccupati naturalmente, e anche dal punto di vista retributivo, seppure naturalmente il percorso è più lungo, nel lungo arco della vita attiva, quindi fino a 65 anni, il laureato finisce per guadagnare il 65% in più di quanto non capita al diplomato di scuola secondaria. Certo. Quindi insomma, per dire che è un investimento importante. Mm-mm. E che quindi va fatto naturalmente con la cura che voi state mettendo in luce, giustamente. Certo, ecco, qual è la laurea particolarmente forte in questo momento, dottor Cammelli, per il mercato del lavoro italiano? Ma tenga conto che vi sono lauree più, dico, più specifiche, più orientate, come quelle di ingegneria, come quelle di architettura, come quelle delle professioni mediche, che immediatamente in tempi brevi realizzano le proprie capacità formative, cioè in tempi brevi sostanzialmente. Altre facoltà, altri percorsi di studio invece hanno bisogno di tempi più lunghi. Di solito questo è il riflesso un po' di questi corsi di studio un po' più, dico, generalisti, diciamo così, e quindi che hanno un ampio spettro di possibilità di collaborative, ma che naturalmente hanno bisogno di tempi più lunghi per realizzare appieno le proprie capacità. Uh-huh. E quindi in questo misuriamo in qualche modo la diversità dei tempi nei quali il ragazzo riesce a trovare lavoro e anche la diversità delle, dico, retribuzioni, che evidentemente sono più elevate per chi riesce a collocarsi prima, o meglio si realizzano prima i livelli più elevati, invece hanno bisogno di tempi più lunghi per questi percorsi di tipo generalista. Andrò adesso tra qualche minuto con lei, dottor Cammelli, anche all'aspetto economico, quindi ai costi che le famiglie devono sostenere per permettere al proprio figlio appunto di condurre con successo il proprio percorso universitario. Però, visto che ho convocato anche Cristiano Dell'Oste, sul quale confido particolarmente per tutta la tipologia delle problematiche appunto economiche, allora guarda, ti pongo subito delle domande di alcuni ascoltatori, visto che già avevamo individuato delle domande sulle quali eravamo pronti. Giambattista da Brescia, benvenuto a Salvadanaio. 800 24 00 24 è il numero verde per tutti voi. Giambattista, ci dica, sì, tutto. Buongiorno, grazie dell'opportunità, buona giornata. Grazie a tutti, a lei. Ecco, la mia domanda era, diciamo, sotto un certo punto di vista un po' marginale, però riguarda il costo di, diciamo, che una famiglia deve sostenere per il figlio che va all'università. E lo chiami marginale? Non lo chiami? No, non lo posso, non... La mia domanda. Ah, la no, mia ma domanda, ci mancherebbe. Diciamo, è un po', ecco, in questo senso. Che dunque mio figlio era alla statale, vero, se non che per questioni di lavoro non poteva seguire e si è iscritto a una università online. se non che per il 7.30, vero, quella statale me l'hanno considerata, mentre hanno avuto dei problemi e quindi ho deciso di lasciar perdere le tasse che avevo pagato per l'università online. Se non che prima era, diciamo, Università di Brescia, adesso invece è una università online che ha sede a Roma. Sì. Ecco, io ho provato a cercare qualcosa perché sono arrivato fino a che c'erano delle tabelle di raffronto con le tasse universitarie, però queste tabelle, vero, non sono riuscito ad averle e a saperle, perché c'è un corso online della stessa università presso la Sapienza di Roma. Giambattista, sì. Però ecco, l'assistente, il CAF, non sapeva. Non ha saputo dare grandi informazioni. Allora, Cristiano, lo possiamo aiutare con il dossier di questa mattina? Ma diciamo di sì. Diciamo che intanto forse la confusione da parte del CAF può essere nata dal fatto che il figlio del nostro ascoltatore si è iscritto a una università telematica. Sono un fenomeno abbastanza recente. Sono appunto università che consentono di frequentare le lezioni, diciamo, direttamente davanti al proprio computer. Le si può vedere o scaricare da internet anche alla sera, insomma, quando si ha tempo in ragione dei propri impegni di lavoro. Sono però università assolutamente analoghe alle altre, rilasciano titoli che hanno lo stesso valore, sono 11 quelle riconosciute. Poi bisogna fare attenzione perché su internet ci sono anche fenomeni meno validi, ma insomma le università telematiche riconosciute dal Ministero rilasciano titoli che hanno il medesimo valore delle altre, e quindi vale la regola che vale anche per le altre università, anche sotto il profilo della detrazione. Questo significa che si può detrarre il 19% delle spese di istruzione sostenute, nel caso specifico delle spese per il pagamento delle tasse, e quando, come nel caso dell'ascoltatore, si tratta di un'università non statale, lo sconto fiscale spetta fino a un limite analogo a quello stabilito per le tasse e i contributi di corsi analoghi tenuti in istituti statali. Quindi se il ragazzo si è iscritto allo stesso corso, presumendo che abbia continuato il medesimo appunto percorso di studi, dovrà fare riferimento, magari informandosi presso la segreteria della vecchia università, a quello che era il limite massimo di detrazione, e potrà detrarre il 19% fino a quell'importo. Suggeriamo anche a Giambattista magari di prendersi lo speciale del Sole e portare questa parte, appunto, in cui viene descritta tutta la modalità per il taglio fiscale praticamente, e quindi lo può portare al CAF e dimostrare al centro di assistenza fiscale che può operare appunto questa riduzione. Sentirei allora anche Sandra d'Alessandria. Buongiorno. Buongiorno. Volevo porre un quesito. Sì. Praticamente ho mia figlia che sta studiando in Inghilterra, sta prendendo la laurea in Inghilterra. Sì. Presso un'università inglese. Premetto che per i 3 anni che ha già frequentato non sono riuscita a scaricare un euro di un tubo, insomma, di pagamento. Niente, perché al CAF mi dicevano non sappiamo, è una università straniera, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. Accantonato, cioè, poi, che poi anche lì dire non sappiamo, o è no o è sì, o si può fare o non si può fare, se non lo si sa vabbè. Ecco, una prassi molto molto complicata che io non riesco a gestire, nel senso, bisogna rivolgersi presso un'università italiana, valutare qual è il tipo di corso di laurea frequentato da lei, che ha un nome completamente diverso a quello che può avere in Italia, perché è strutturata diversamente. Quindi sapere da loro quanto avrei dovuto pagare di tasse per quel corso, per quell'anno, e poi scaricare in base al mio reddito quella cifra lì. Cioè io non ho nelle mie possibilità sapere, cioè dovrei andare a rivolgermi presso diverse università e sapere quanto sarebbe la mia quota di tasse universitarie da pagare. Le dico sinceramente, questa è una cosa molto complicata per uno infatti, che... infatti scoraggia qualsiasi iniziativa. Non è tanto semplice rivolgersi, chiamare l'università e dire io che... fondamentalmente non so come farvi, e internet e compagnia bella, non so, sono digiuna a questo sì, proposito. Sì, infatti. Sandra, allora diamo qualche minuto di tempo ai nostri ospiti di riflettere sulla risposta da darle, peraltro poi c'è un altro aspetto anche da considerare alla luce dell'esperienza che lei ci ha portato, e che, come rileva sempre Cammelli di Alma Laurea questa mattina sulle Sole, aumenta silenziosamente il numero di chi decide di studiare all'estero, e sentiamo anche se questa operazione, che dal punto di vista economico credo sia piuttosto impegnativa, però anche che opportunità apre, che forse sono sicuramente molto più consistenti. Eccoci ritrovati in diretta questa mattina con la collaborazione del lunedì del Sole 24 Ore, che pubblica il dossier università. Ovviamente affrontiamo questo argomento per capire intanto quali sono, come dire, le lauree più richieste al mercato del lavoro, ma soprattutto qual è l'impegno finanziario ed economico che le famiglie devono sostenere per ovviamente permettere così di rispettare anche le vocazioni dei propri figli, a patto che queste poi si sposino sia con le esigenze del mondo del lavoro ma anche con le esigenze appunto economiche della famiglia. Con noi stamattina Franca De Ponti, Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore e Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Ed eravamo rimasti alla esperienza di un'ascoltatrice di Alessandria che sta sostenendo il percorso di studio della figlia a Londra, però non riesce appunto dal punto di vista fiscale a come dire, risparmiare su questa spesa, perché Cristiano Dell'Oste, qui tra l'altro anche nella prima parte di Salvadanai avevamo già toccato questo argomento, non riesce a trovare praticamente il paritetico corso di studio in Italia, pertanto non si può fare un paragone di tasse. Certo, diciamo che l'ascoltatrice ha molto chiara la teoria, nel senso che le norme sono esattamente come lei le ha dette. Il problema è quello di individuare il corso equivalente, che può essere una cosa sul piano pratico piuttosto complessa. Bisognerebbe capire che cosa studia la figlia e provare a individuare l'omologo in un ateneo italiano e il livello di detrazione consentito nell'ateneo italiano. Certo, appunto, l'operazione, dicevamo, è complicata e bisogna anche valutare che poi come dire, valga la pena di mettere in moto tutta questa procedura. Di fatto, insomma, lo sforzo anche informativo deve farlo tutto lei. Non esiste, come dire, anche una piattaforma, non so, un osservatorio. Non esiste e non potrebbe esistere, perché le possibilità di studio all'estero sono pressoché infinite, certo. Ecco, proprio su questo Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea, proprio lei lo scriveva nel suo pezzo di analisi per il Sole 24 Ore: aumenta silenziosamente il numero di chi decide di studiare all'estero. Una rivoluzione silenziosa. Ma sì, credo che sia anche molto importante. C'è un mercato globale, quindi è giusto naturalmente che ci sia la libera circolazione anche degli studi, così come è previsto dagli accordi di Lisbona e dal Bologna Process. Certo è che gli ultimi dati di fonte OCSE del 2008, che fanno riferimento al 2006, ci parlano di oltre 40.000 fra studenti e dottorandi italiani all'estero, in gran parte in Germania, ma anche in Austria, Regno Unito, eccetera, eccetera. Insomma, un forte flusso di capitale umano che esce dal nostro paese, va a studiare o a perfezionarsi all'estero e non sempre i nostri studi hanno messo in luce e ritorna poi in casa. Il rischio, insomma, è di un investimento grosso fatto dal paese e dalle famiglie, oltre che dei singoli, che il paese rischia di perdere, una vera e propria sorta di emigrazione tipo intellettuale, questa volta, che impoverisce o rischia di impoverire il paese. Questo è un aspetto che andrebbe naturalmente guardato con molta attenzione, probabilmente anche da parte del Ministero, mi pare che ci si stia muovendo su questo terreno, potenziando gli strumenti di aiuto ai giovani e alle famiglie, naturalmente, che non sono in grado di sostenere, mi pare che questo fosse uno degli elementi che lei ha ricordato all'inizio, Sì. Studi lunghi, naturalmente, ed onerosi. Tanto ricordo che, un dato importante, ancora nel 2008, fra i laureati del 2008, il 72% di questi laureati porta a casa la laurea per la prima volta. Cioè, vuol dire, viene da prima. Breaking news. Un aggiornamento sulla vicenda del gruppo di stranieri rapito nello Yemen. 7 delle 9 persone sequestrate sono state trovate morte. Tra i 9 rapiti c'erano anche 3 bambini. Questo è quello che ha riferito la polizia yemenita. I bambini rapiti sono tedeschi, come 4 degli adulti. Gli altri sono un ingegnere britannico e un insegnante sudcoreana. Tutti appartengono ad un'organizzazione internazionale che da 35 anni lavora nell'ospedale di Sada, provincia dove era avvenuto il sequestro. Ripetiamo la notizia: sui 9 rapiti ieri 7 sono stati trovati morti. Grazie Simone Spezia per questo aggiornamento dalla redazione. Andrea Cammelli, siamo in diretta costantemente a Radio 24 e quindi diamo spazio in tempo reale alla cronaca. Allora, volevo ultimare le sue considerazioni su chi sceglie percorso di studio all'estero. È evidente che occorre aiutare una parte di popolazione che fino ad oggi ha avuto difficoltà ad avere accesso al mondo universitario, agli studi universitari, perché il paese ha bisogno naturalmente di ampliare la base di partenza e di alzare la soglia educazionale complessiva del paese. Mettevo in evidenza che fra gli ultimi di quei laureati, quelli del 2008, il 23% di loro ha usufruito in tutto o in parte di borse di studio. Allora, questo è un settore cruciale, perché è evidente che un paese che decide di investire di più nell'istruzione di questo superiore, e certo per competere a livello internazionale noi dobbiamo fare di più, bisogna anche che destini delle somme non a pioggia, per cui un pochino a tutti o a molti, ma decida naturalmente di aiutare molto di più coloro che hanno merito, naturalmente capacità e bisogno naturalmente per arrivare in fondo. Certo. Cosa che fino ad oggi è stato fatto molto poco. La questione... Con rischio appunto che somme anche dico consistenti, che certamente vanno potenziate, spese in questa direzione siano sostanzialmente poco fruttifere, diciamo così. È che molto spesso i criteri anche per ottenere una borsa di studio sono piuttosto rigidi, soprattutto in termini reddituali, magari non ci si rientra davvero per poche centinaia di euro. Adesso questo è un aspetto che affronteremo. Volevo ritornare sempre relativamente al percorso di studio da poter fare all'estero con Franca De Ponti, prima di addirittura organizzarsi per un intero percorso universitario in una università straniera, si può approfittare comunque dei progetti Erasmus delle università. Questi forse sono delle opportunità allo stesso piuttosto importanti, un po' meno onerosi magari. Beh, diciamo onerose. Che noi non brilliamo fra gli altri paesi per numero di studenti che vanno in Europa seguendo Erasmus, però insomma la quota pian piano aumenta. Comunque uno studente che vuole mettere nel suo curriculum anche un'esperienza straniera attualmente ha due possibilità: quella di prepararsi e di richiedere insomma la borsa di studio Erasmus, che peraltro è abbastanza bassa, mi sembra che si parli di circa 300 euro al mese, insomma la borsa di studio in sé non copre tutto, però diciamo che il ragazzo ha la possibilità di svolgere una parte, normalmente sono circa 6 mesi o qualcosa in più, dei propri studi in un'università straniera, e gli esami che devono essere concordati preventivamente, quindi uno deve verificare prima insomma quali sono gli esami che può dare nell'ateneo straniero, poi vengono riconosciuti ai fini della laurea italiana, e comunque uno si fa un'esperienza di studio all'estero che serve anche ad altri scopi, non solo per lo studio. L'altra possibilità che sta venendo avanti e che sta prendendo piede specialmente in questi ultimi 2-3 anni è offerta invece direttamente dagli atenei. Sono i double degree, cioè gli atenei si stanno sforzando di attivare delle specie di gemellaggi, diciamo così per capirci, con degli atenei che hanno lauree equivalenti all'estero. Lo studente che si iscrive a queste lauree ottiene il titolo il doppio titolo. Italiano e straniero, e naturalmente questo fa sì che una parte di questi studi, così come per i ragazzi stranieri che si iscrivono all'università equivalente, debba essere svolto nell'altro paese. Normalmente si tratta di almeno un anno di studi. Quante università italiane si sono attivate in questo senso, convenzionate con atenei stranieri? Attualmente una trentina. Però abbiamo visto che teniamo il monitoraggio di questi di anno in anno, che la cosa insomma sta abbastanza aumentando. Cristiano, mia figlia ha fatto Erasmus, posso detrarre le spese dell'affitto sostenute, chiede un ascoltatore? No, in questo caso no, perché si tratta di spese che non sono sostenute in Italia. Possiamo cogliere l'occasione magari per fare un piccolo riepilogo sulla possibilità di detrarre le spese sostenute per l'affitto in Italia, perché anche in questo caso lo sconto fiscale ammonta al 19% della somma pagata. Bisogna però ovviamente che si tratti di uno studente fuori sede, quindi di uno studente che studia lontano da casa, deve studiare o in un comune diverso da quello di residenza, che sia distante almeno 100 chilometri, oppure comunque in una provincia diversa da quella in cui risiede. In questo caso non si fa più riferimento alla distanza. La detrazione spetta su un importo fino a circa 2600 euro, quindi vuol dire che al massimo lo sconto fiscale è di 500 euro. Vedo intanto che gli ascoltatori sono rimasti particolarmente incuriositi dalle cosiddette università online. C'è un ascoltatore, Max, che ci scrive: ho sospeso ingegneria informatica online al Politecnico di Milano, 10 esami sostenuti, ho chiesto il trasferimento a Pisa, Milano mi ha chiesto 250 euro per anno per rilasciarmi gli atti. Enrico da Vicenza, anche lei, no, voleva fare una domanda su questo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Solo sapere a chi mi devo rivolgere per avere la certezza che l'università telematica alla quale tipo mia figlia è iscritta è riconosciuta dallo Stato. Enrico, allora beh, intanto sul Sole 24 Ore credo che ci sia la rosa delle università assolutamente riconosciute. Sì, quello sicuramente. Ma quante ce ne proliferano insomma sul mercato italiano di No, in realtà anche le università, il riconoscimento delle università italiane si è fermato nel 2006, se non ricordo male, quando l'allora ministro dell'università Mussi, quindi era fine governo centrosinistra, mise uno stop sostanzialmente alla proliferazione di questi atenei, che invece si erano un po' moltiplicati rapidamente negli anni precedenti sull'onda di una serie di decreti di riconoscimento varati appunto dal Ministero dell'Università. Dicevamo prima, in tutto sono 11, il modo migliore per sapere quali, insomma, che l'università nella quale si studia sia effettivamente riconosciuta e verificare o con il dossier che noi abbiamo pubblicato o con l'elenco che c'è sul sito del Sole 24 Ore oppure ancora direttamente sul sito del Ministero. Infatti, che è www.miur.it, la sede istituzionale, certo. Insomma, più idonea. Ultima parte di Salva Danaio dedicata oggi al mondo universitario. Ci sarebbero tantissimi aspetti da affrontare, stiamo un po' in realtà rispondendo alle domande degli ascoltatori che ci stanno arrivando, soprattutto relativamente agli oneri che ovviamente bisogna sostenere per mantenere un figlio durante il percorso di studi, oneri che sono particolarmente consistenti ovviamente se si sceglie un'università lontana da casa, se addirittura si ha l'opportunità di mandare un figlio all'estero, ma magari la, come dire, università online può risolvere molti problemi perché potrebbe permettere anche ad una persona di lavorare tranquillamente, studiare negli orari più consoni a sé. Le università riconosciute sono 11 nel nostro paese. Andrea Cammelli, Alma Laurea, come vede il mondo universitario questa novità che è piuttosto recente per il nostro paese? Ma guardi, bisogna distinguere, francamente, credo che l'università realizza al meglio il suo obiettivo quando riesce a mettere assieme docenti e studenti, ricerca e didattica. Il che francamente non è sempre facile farlo online, perché il rapporto sinergico, insomma, dico dialettico, fra docenti e studenti non è facile realizzarlo. Però è vero che vi sono esperienze anche in questo settore di atenei telematici che sono riusciti con nuovi strumenti a realizzare questi obiettivi. Là dove questo è possibile, naturalmente credo che sia un valore aggiunto importante che contribuisce ad elevare ancora una volta la soglia educazionale di quel paese. So che non è molto facile. Non è facile, ma non sono neanche particolarmente convenienti dal punto di vista economico, da quello che mi risulta. Quindi ecco, poi questo non lo so, dico francamente, è vero che l'università italiana complessivamente, bisogna dire, non è che veda delle cifre particolarmente elevate. È vero che molte famiglie fanno difficoltà ed è per questo che, come si diceva prima, un grosso aiuto va dato perché anziché il piccolo contributo la famiglia possa sostenere per intero tutte le spese dovute. E se le università telematiche consentono di raggiungere questo obiettivo, sarebbe un fatto buono. Credo che Mussi abbia fatto bene a stoppare, perché mi pareva che ci fosse una sorta di proliferazione francamente non sempre di qualità su questo settore. Sì, forse migliore, poi io non mi intendo esattamente di questo percorso, un po' la razionalizzazione intrapresa, adesso magari scriverà qualcuno che sponsorizziamo anche questo governo, vabbè, ma chi se ne importa, magari dei corsi di studi insomma intrapresa da quest'ultimo governo. Comunque lascerei da parte questa considerazione. Dottor Cammelli, la ringrazio per essere stato con noi, ci risentiamo presto. E fate un'operazione di meritoria, perché davvero se penso che 20 immatricolati su 100 si perdono nei primi 12 mesi, mi pare veramente che questo sia il costo più elevato che il paese, le famiglie, i ragazzi finiscono per sopportare, perché l'orientamento è parziale, è carente, quindi state facendo un'operazione importante. La ringrazio. Il problema è che anche in questo momento scegliere con serenità il percorso di studio in tempi di crisi, magari qualche ragazzo si trova a dover fare una scelta in questo momento e magari vive in una famiglia in cui il papà ha perso il posto di lavoro, si trova in cassa integrazione, in mobilità, ci sono tanti aspetti da considerare in una fase molto particolare come questa. Comunque andiamo avanti con le domande dei nostri ascoltatori. Guarda Cristiano, noi volevamo fare una precisazione sulla questione degli affitti, l'avevamo accantonata, credo che però Giancarla se ne sia accorta. Giancarla da Verona, buongiorno. Buongiorno. Sì. Dunque il problema è questo, io ho sentito la vostra trasmissione, ho sentito un'informazione che secondo me o la so sbagliata io o l'avete data sbagliata voi. L'abbiamo data sbagliata noi, Giancarla. Infatti volevamo precisarla proprio appena riprendevamo la trasmissione. Appunto, sì. Era il problema della detrazione dell'affitto per uno studente che abita, diciamo, alla residenza fuori dalla propria provincia. Voi avete detto che basta che sia lontana 100 chilometri oppure in un'altra provincia indipendentemente dai chilometri. A me risulta invece che i requisiti ci devono essere entrambi. Giancarla, io la adoro perché ci ascolta così attentamente. Cristiano Dall'Oste, oggi neanche anche un 18 si prende. Le risulta bene, le risulta bene, perché abbiamo detto prima, anzi ho detto prima una cosa imprecisa, ci vogliono entrambi i requisiti, quindi ci vuole il comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 km e in una provincia diversa. E infatti, poi ce ne, le ribadisco Giancarlo, ce ne siamo accorti e volevamo precisarlo proprio adesso appena possibile. Grazie molte. Mariangela da Macerata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, io volevo chiedere se era possibile scaricare le spese per un master che sta facendo mio figlio a Milano. Se era possibile scaricare, perché vuol dire non è, è la sta facendo presso l'università. Però qua giù al caffè mi avevano detto ma non credo, però lei tenga tutto da parte. Poi infatti, così, chissà, cioè, vabbè, l'importante è che non abbiano detto no, non sappiamo, arrivederci e grazie. Mariangela, allora con i master come... Sì, Franca. Se no il povero Cristiano diventa un esperto fiscale. Esatto. Allora no, la signora ha ragione, tenga i documenti, perché lei invece può tranquillamente scaricare le spese di studio, capiamoci, non tutto, quindi non i trasporti, non i libri, le spese di iscrizione nude e crude al 19% dell'importo, se è un master in università statale per l'importo che paga, se è una non statale, come vale anche per le lauree, si scarica la somma di un master equivalente. Quindi per dire, se uno fa un master a Milano, si va a guardare se c'è un analogo master in un'università statale a Milano e si scarica in base a quelle cifre lì. Ecco, tra l'altro, sempre nell'ottica di risparmiare tempo e di conseguenza anche denaro, sempre spulciando nelle varie parti delle dossier, Franca, ho visto che molte facoltà permettono di espletare gran parte dell'iter di iscrizione via telematica? Sì, nel senso che diciamo che ormai la modalità telematica sta diventando sia una delle modalità principi per quanto riguarda proprio l'iscrizione all'ateneo, quindi l'immatricolazione, nel senso che insomma si cerca di evitare il più possibile papiri e aggravi burocratici, e poi sta prendendo piede anche molto l'iscrizione online agli esami. In modo che uno non debba necessariamente andare e farsi file, esatto, anche un tempo, ricordo, anche molto consistenti per iscriversi all'esame. D'altronde, insomma, siamo nell'era dell'informatica. Ci, esatto, almeno questo. Le tasse universitarie, Cristiano, devo farti rientrare nei ranghi, per così dire, fiscali. No, in realtà, voglio dire, a parte le considerazioni da fare sul reddito, il patrimonio familiare, non vengono però calcolate con gli stessi parametri in tutte le città. Quindi anche a parità di corso di studio, magari, insomma, qualche facoltà a Bergamo piuttosto che a, non lo so, Vercelli, adesso poi ho fatto due città che non so neanche che corsi universitari abbiano, possono essere molto differenti. Certo, questo è uno dei tanti riflessi dell'autonomia universitaria. Ci sono vari indicatori, diciamo che il più utilizzato si chiama ISEU, con due E, è un nome un po' strano, di fatto è la variante universitaria dell'ISEE, che è l'indicatore utilizzato generalmente per accedere a tutta una serie di prestazioni sociali, quali ad esempio gli asili, il bonus sociale, certo, oppure la social card e via discorrendo. L'ISEU, appunto, dicevamo, è una variante specifica dell'università, presenta alcune differenze rispetto all'altro, ad esempio conteggia anche i redditi e i patrimoni dei fratelli, ma solo al 50%, i redditi e i patrimoni posseduti all'estero e così via. Diciamo che l'obiettivo dell'ISEE come indicatore, e quindi anche della sua variante, è quello di mettere insieme da un lato l'ammontare del reddito della famiglia, dall'altro le consistenze patrimoniali, sia in termini di immobili che in termini di come dire, patrimonio mobiliare, quindi depositi bancari, investimenti, ma anche di come dire, bilanciare questi due fattori con la dimensione del nucleo familiare, in modo tale che ci sia quella che viene chiamata la scala di equivalenza tecnicamente, che va ad abbattere il reddito della famiglia. In questo modo chi viene insomma vive in una famiglia numerosa tende a pagare tasse universitarie leggermente più basse. Va detto però che appunto i casi sono comunque molto, molto diversi, ci sono anche atenei che applicano indistintamente lo stesso livello di tassazione universitaria a tutti, e va detto anche che presentare la modulistica non è obbligatorio, questa è una cosa che insomma che si sa abbastanza, ma che è bene ripetere, chi non presenta il modulo per la certificazione viene inserito nel livello più alto di tassazione, quindi se si sa già che il proprio reddito è molto alto si può evitare almeno l'incombenza burocratica. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, ci mancano 40 secondi, ma magari un ultimo messaggio, volevo lanciarlo con Franca De Ponti, perché in realtà magari per alleggerire anche il peso economico che le famiglie devono sostenere, molto spesso ci si può rivolgere anche all'università per cercare un lavoro? Sì, teniamo conto che le facoltà, le singole facoltà spesso bandiscono durante tutto l'anno dei concorsi per le cosiddette 150 ore, ogni studente dal secondo anno in poi può concorrere per avere questi piccoli lavori nelle biblioteche, quello che è, all'interno dell'Ateneo, e così si paga, insomma, non si mantiene, però insomma può pagarsi po' di studi. Qualche libro ce lo si può comprare. Sì. Anche grazie a Franca De Ponte, Cristiano Dell'Oste, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo oggi, con il Sole 24 Ore, il dossier Università, tutte le informazioni per scegliere il percorso di studio che fa, ovviamente al caso nostro, se siamo degli studenti magari, ma soprattutto anche per le informazioni utili per tutte le famiglie che devono invece aiutare i ragazzi a fare serenamente anche questo periodo della propria vita. Salva Danaio torna domani, buona giornata.